70 qualcosa, 79, guarda, io non mi peso da un bel po', perché preferisco non pesarmi, però non è che sia obeso, no, assolutamente. Scommetto, quando sei sulla minaccia dice, ti ho detto una alla volta. No, no, no, non crede, non crede. E se fossi obeso, ci manca solo quello, mamma mia. Più tutto il resto. Beh, aiuta, io devo finire di mangiare. Riprendete voi, chi c'è rimasto? Dai, buco grigio che parcheggio. Io sono qui nel parcheggio di Piazzale Segni, un metro più spazio dai collegamenti di oggi. Mi trattando di qui che metterò una tenda, cambio. Caspita. E io come ti arrivo alla Piazza dei Segni, un pomeriggio? Guarda, forte e chiaro, io non ho lo strumentino né portatile, ma posso dire forte e chiaro, capito? Capo, no, mi interessa solo la radio. Dato che io sono l'unico che sono fuori di Sassari, dai. Mi ricordi dove, da dove moduli, cambio? Zona San Camillo. Ma tu sei l'unico fuori Sassari? Ehi, già, è vero, anche tu, pardon. Poi ti arrivo più forte, Riccardi. La portante mi sono mettendo. Ah, io esci dalla macchina. Ho ti posso la sul braccio, mi coscio. Sembra qualcuno che ha un rientro, un innesco, e non esce di radio. Non deve essere riconosciuto chi è, Fred. Come avrà avanti a ponermi la portante? Hai visto, bisogna chiamare il brazzetto. Perché te ne pare, a me è pongo la 50, no? Che cazzo mi sei bidetti, umare. Cazzo portante a me. Ma tu lo passi, è portantina questa qua. Se capa, abbiamo aggiunto un'altra pezza di antenna adesso. È in macchina, è in macchina. Guarda che ti faccio l'altro braccio, poi no. Che capo di cazzo, conosci Buruzzo? Se voi eravate in ascolto da poco fa, bene, bene, bene, ricordate chi c'era in frequenza, e poi ho detto che andava in macchina, quindi sapete già chi è. No, sta vicino a io, che mi che faccio lo mancanello, io no, che mi, ti ricordo una bella passata, mi, io sono mancante, mi, no. Se ti avvicini vicino a casa ti prendo il manganello, vengo ti picchio. Allora, siccome vanno dentro io, questo non può entrare, capito? Allora sto mettendo la portante, perché non posso portare, che si è messo il baracchino in macchina e vuole modulare, ma non può modulare. Riccardi. Ehi. Ma a me mi disturba. Oh, tu lo batti 10 a 0. È convinto, E chi c'è ormai più il mal di baracchino in macchina, a parte me. Ma se alle palle vieni in c'è la zona mia, così esco al cancello e ti taglio le braccia, così non metti più portante. La macchina. Ma qua fa che faccio un manganello. Oioia. Ma sei tutta l'alternata poi. Attenzione, ci gommino, non ci sei. Sì. Attenzione, Emanuele. Sì, ci sto, ci sto. In macchina vuoi la portante, guascio. E la vado di lì, sì. Solo quello può fare. Ma io ti dai la sua razza, mi vuoi subito coscio. Se le devi venire a convincere, le pigliò da avanti subito. Se vedo che arriva a fondo scalo vicino a casa, sto prendendo la macchina sopra il cancello, e le dai due razzi. Tanto da qua è facile, mi col dato. Da dove resta a te, se vuoi qui. Qua è 9 la porta. Tanto, non siamo da perdere. Bene, bene, che bene che faccio una cosa miracolosa, bene. Anche tu lo passi comunque, Fred. Ma dal ricordino ce la faccio arrivare, sì. No, no, non ce la fai. La tua, così è. Boh, secondo me è qualcuno che non sta uscendo, che tenta di comunicare. No, Marco lì, questo è importante. Si è messo in macchina, io faccio molto ascolto, capito? Anche se sto facendo cosa, lavoretti, ascolto un bel. E quindi si è messo in macchina, sono entrato io, automaticamente non entra lui. E sta mettendo la porta, se guardi bene il segnale, si muove un po' perché è in movimento. Ha sbagliato banda, si è andato in CW. Che cosa è in CW? No, con questo innesco che sta facendo trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr di trasmettere. Sto ti arrivo da te, ma Sandro, ma non mi viene il nome adesso. Vabbè dai, c'è portante, io chiudo. e continuo a mangiare, tanto ero a metà strada. Ciao a tutti, ho sentito anche Emanuele fare capolino, ben sentito dopo un bel po', e rimango all'ascolto. Ciao a tutti, vai, chi rilancio? Riccardo. Bene, mega, ciao Marco, saluto a tutti, anch'io vado che devo fare una bassa e ci aggiorniamo alle prossime, un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao Marconi, fai bene comunque a mangiare, che è meglio di stare qui con la portata, se ti disturba, non mi disturba proprio. Ciao, a che fai, Riccardi, buon con X, buona bassa, ci sentiamo. Avanti, Nico. Ciao Marcolino, ciao Riccardino, ce la riascoltiamo, tutte le migliori. Ciao, ciao Emanuele, ma non mi viene mai il nome, Antonio Bombolo, dai. Ciao a tutti, poi c'era gente al telefono che non ha ripreso, Giulio anche c'era volendo. Giulio, sei rintratto? Gli fai compagnia a loro. Niente, tutti morti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Chi sono io da Piazza Le Segni? Avanti. Sì, 7351, Lupo Grigio, operatore Nicola, Parramobile in Piazza Le Segni, cambio. KK, qua non è che mi arrivi fortissimo, ma già ti sento già. Mi ricordi il tuo QTH approssimativo, cambio? Capito. Scusa, non ho copiato, ripeti. Sono da zona, dove modulo io, da zona Cappuccini. Non da zona Cappuccini, zona Corsovico, dai. Sì, si conferma. Comunque io sto modulando da Piazza Le Segni con un portatile collegato a una mini turbo, cambio. Va bene, ti arrivo in quella zona. Allora, il portatile non ha lo strumentino, ma possiamo dire che sei molto comprensibile, cambio. E capa, non avrò un grande segnale, però ti arrivo. Comunque, Nico, nel complesso sei soddisfatto di quell'antenna, sì? Assolutamente affermativo, assolutamente sì. Ma quando mai io sono riuscito a parlare con tutti questi amici, cambio? Eia, poi c'è una zona ancora migliore, al Belvedere di San Francesco. Fai via Grazia Deledda tutta fino in fondo, arriva una rotatoria grande, continui dritto, poi c'è un piccolo bivio a sinistra, non so se è presente quella, che poi una via lunga che poi finisce davanti a una chiesa. Lì a metà strada ci sono delle scaline, ti fermi in macchina, lì copri ben oltre la città, dai. Sì, ho capito dove c'è la chiesetta di San Francesco dei Cappuccini, se non sbaglio, giusto? Sì, in fondo sì, però a metà strada c'è una specie di mezza piazzola sollevata dalla strada con dei gradini, tu ti fermi lì in macchina, arrivi a Pro Torres senza problemi dalla macchina, è che non viene più nessuno a Pro Torres con cui parlare. Va bene, di nuovo buona serata, dai, ciao Nico, anche a te, ciao. Ciao, ma è rimasto qualche altro interrogativo? Tutti al telefono. Ho detto bisogna mollare il telefono ad entrare di più al baracchino, quello che dico io. Ah, ma è quello che dico io pure. Ehi, lui. Già non posso comprendere il telefono. E comunque guarda, da quando è arrivato il fresco io mi sono ripreso, Nicola e Antonio, perché io col caldo ero in condizioni pietose. Proprio ero ridotto ai minimi termini, prendevo la macchina solo per fare la spesa se strettamente necessario, ma per me era una tortura. Oggi sono andato a fare la spesa e un bijou, veramente rinato. Vai Antonio. Io me ne andavo al mare e non c'era nessun problema, capito? Sì, ma pure l'andata, ritorno, brugaggio, soprattutto il ritorno, no, manco voglia di quello. Vai Nico. Beh, effettivamente il troppo caldo ammazza le persone, ma comunque non ho capito che anche domani mattina piove, ne sapete niente? È variabile Nico, in teoria da queste previsioni farlocche di meteo.it doveva piovere nel primo pomeriggio a Sassari e invece non ha piovuto. Tutta stanotte. Eia, guarda, io voglio pioggia, freddo, vento, tuoni, fulmini, basta che non torni col caldo, perché per le mie condizioni di salute, diciamo, non sono ottimali, no? No, non c'è problemi, non ci sono problemi per me. Beh, sto attento, io non... veramente... cioè andare in macchina non c'è clima che tenga. Guarda, l'ultima volta che ero andato a fare la spesa in macchina avevo il clima, beh, ed ero pantaloncino e maglietta. La maglietta dietro era così bagnata da poterla strizzare, ti dico solo quello. Dai signori, correte esecutivo per me che poi devo uscire anche. Riprendete voi. Ciao Nicola, tutti quelli all'ascolto, ritenetevi salutati. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Marco, dai, pure io adesso vado a fare delle cosette, scendo giù a vedere la cucina, come si è accorto la situazione che si comprende. Dai, ce la risentiamo dopo. Ciao, ciao, se coincide. Ciao, ciao. Gianni doppio rum, ci sei interrogativo? Gianni doppio rum, ci sei interrogativo? Quando troppo, quando niente. Non entra nessuno per settimane, entriamo tutti assieme e ci accavaliamo. No, stavo parlando con Gianni, non ho capito se mi raggiungevo a Piazza alle 6. Fai sparire completamente, campo. Ehi, telefonate, cose, messaggini, distrae molto lo smartphone. Sì, ma io è mezz'ora che sto facendo QRT e non chiudo mai. Dai, Nico, vado, dai. Alla prossima fois. Ciao a tutti, ciao. Sì, ciao, ciao, ci sentiamo, vai. Gianni, mi senti? Gianni? Gianni, mi senti? Gianni, 1, 2, 3, prova. Nessuno. Sei meno di 9 già. Nicola è 9 più 15. Ma dove sei, vicino a Nicola? Si conferma, siamo vicino a Piazza delle Segni, cambio. Hai ricevuto? Sì, positivo, dai. Tanto qua, beh, adesso può bastare. Sono sazio, adesso mi tocca il digestivo, caffè, la mazza caffè, tutto. O sta cambiando antenna, comunque io mi sento molto soddisfatto, cambio. Io mi sento molto soddisfatto del clima che è cambiato. Molto, molto. Vediamo sta antenna, io. Sì, la sto montando, un attimo di pazienza che la sto montando. Nico, come veicolare cosa ti piacerebbe? Gira, ti trovi bene col portatile. Anche perché quello c'ha già l'attacco, le predisposizioni per alimentazione antenna. In realtà è comodo, dai. Ma si conferma, questo è abilitato anche a montare l'antenna fissa, Sì, ne ero al corrente. Esce con la femmina PL e con l'attacco alimentazione, dai, quello che è. È versatile come portatile. Ti dirò, carino è il Midland 42, l'Alan 42 DS è carino come portatile. Solo che, vabbè, io non lo userei. No. Vabbè. Ok, adesso credo che Gianni sia pronto. Dai, Gianni. 9 più 5. Però il contatto non è buono, non è perfetto. Il PL si è andato bene, altre cose. L'ultimo sta controllando. Ah, poi una cosa già, modula motore acceso perché a volte queste batterie di macchina, anche se cariche, sono al filo dei 12 volte, certi apparecchi sono sottoalimentati un po'. Metti portante muta. Allora, diciamo che sei tra 9.5 e 9.10, tendente, no, tra 9.5 e 9.10, confermo. Nicola è 9 più 15. Però la radio è veramente ai minimi termini, è già. La modulazione in questo momento è un po' carente, abbastanza carente. Poi conta una cosa, quando sei in macchina tu ti sposti di un metro, due metri, il segnale sale, scende, già lo sai, no? Dovresti trovare il segnale massimo mio per dire, allora, comunque già andava, già vanno bene, via. Allora, 9 più 10 già, confermo, 9 più 10. Ho guardato meglio oppure, non lo so, il vento sarà, cosa ti dico? 9 più 10. Sì, rispetto a Nicola è più compressa e più bassa la modulazione. Se volete vi faccio una prova comparativa e ve la mando, almeno a te. No, perché se l'apparecchio che ho usato altre volte uscivi meglio già. E sta sparendo il segnale. Facciamo così, Nicola, fai un passaggio tu, come modulazione, no? E poi subito dopo uno Gianni, dai. Vabbè, dai, state parlando lì in verticale, quando siete pronti. Basso di radio, già, questo è omologhe, cioè più di tanto non puoi spremere. Io comunque ti sento bene. Parla Nicola. Parla Nicola e subito dopo Gianni. Prova 1, 2, 3, prova. Gianni, adesso parla tu. Parla Gianni. Non ci siamo, dai. Probabilmente c'ha falsi contatti. Non... No, guarda, per quel pochissimo che ho potuto capire, ha un portatile tipo scanner, quindi... se non becca la giusta frequenza non parlerà mai, capito? E non è, scusa, non è un CB canalizzato, come fa a essere, oh, non mi sono smarrito, dai. Guarda, il mio portatile è FM AM da 1 a 40, quindi io lo metto, il suo mi sembra un pochino più complicato tutto, capito? Fai un passaggio lungo. Sempre 9 più 10 già, non cambia molto. Bene o male siamo in linea. Detto ciò, dai, le prove, bene o male, siamo lì. Signori, vi devo salutare che devo uscire, con una certa urgenza, che devo fare una commissione. Ciao a tutti, Gianni, guarda che ti mando l'audio, ti faccio sentire com'è la tua modulazione, che ne so, tipo quella di Nicola, un paragone, no? No, non ho capito, Nico, fai da ponte, mi ha detto che mi sente male oppure... Come se fossi in FM. E io sento lui lo stesso, come se fosse in FM, è come compressa e un po' bassa, comunque già, te ne accorgi più a orecchio, dai. Però leggilo il messaggio dell'audio, adesso ti mando come stai uscendo, come ti dicevo io, dai. Dai, ero in FM, non me ne ero accorto. Come va adesso? Gesù, già, guarda che ti boccio, questo è grave, dopo decenni di onorato servizio. Sicuramente l'ho toccato involontariamente, Marco, il tasto, senza volerlo, dai. Adesso ti ascolto forte e chiasso. Buona, buona tipo quella di Nicola, dai. Comprensibile, abbastanza, sì, chiara, non sono così pignolo, buona. Poi ci ho buttato 40 euro con quella antenna, esce più bassa di questa qua, se immagini. No, ma spiegami, questa di adesso, che antenna è? Quella, non c'era mica quella kit emergenza, no? E allora, quella è... No, scusa, tu ti sei spostato appena, allora fai una cosa e poi esco, rimetti quell'altra antenna. quella da 40 euro, però rimane immobile con la macchina. Nicola, i ministeri da lettere, no? Certe antenne dovrebbero andare meglio di altre, invece alle volte è il contrario. Lo so. Comunque, io per quanto riguarda questa antenna che è la mini turbo, sono molto soddisfatto. Era bello fare a gara su, ah? Vabbè, che non bisognerebbe essere a parità di watt identici, ma vediamo se Gianni ha fatto. Lo sta facendo, senti, io poi vorrei fare una prova, passo un attimo a un watt per vedere se mi copio, va bene? Sì, vai Gianni. Ehi, hai riscosso l'altra di antenna, dove sta andando? 9 giusto. E quindi è più bassa dell'altra, vuole più bassa, io ti faccio pensare che magari non c'è neanche più. Sì, cavolo, ma mi dici la sigla, così me la guardo. Scaleni, c'è scritto antenna, compagnia magnifica, una cosa del genere, non c'è niente. Ma cioè senza marca, e che forma ha? Dimmi che forma ha. Ma non è quella che ha la forma dei vigili urbani, no? Dell'antennino ai vigili urbani? Più o meno. Signori, dai, qua il tempo è nel nostro nemico. Dai, vi devo salutare necessariamente. Ciao Gianni, ciao Nicola, a tutti gli ascoltoni. Ciao, un bacio e abbracci. Ciao. Ciao Marco, Nicola, avvicinati. Ma non andiamo un attimo in ufficio? Andiamo, parcheggiamo le macchine, dai. Vabbè, le lasciamo qui o no? La metto più avanti perché andiamo in un ufficio che dico io, dai. Va bene, va bene. Gianni, come mi senti col motore mio acceso? Bene. No, adesso lascio questa, di antenna perché la partita vale. Dice Gianni, ma io direi di toglierle proprio. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, canale 10 c'è qualcuno, cambio. Mi ascolti? Mi senti? Sì. Va bene, ok. Tu da dove prendi adesso? Dal Ponte Nuovo. No, io prendo da qui. Dalla GTC arrivo subito a casa. Ok, dai, ciao, grazie per la compagnia, Questa è la volta che noi ci facciamo compagnia quando arriviamo, là, a vedere se non arrivi in lontananza. Va bene, ok. Direzione via Lunettone. Sì, adesso qui dove c'è. Qual è dove sono i vigili urbani da questa parte del bandano? Passato da lì. Posso passare anche dall'altro lato, ma preferisco passare da qui adesso. Già ti ascolto bene. Beh, abbiamo due antenne bellissime. Sei pentito sicuramente. No, questa qua va benissimo. Cosa ti aveva? Un segnale di differenza. Certo. Bene, io sono qua, mamma mia che ho un vuoto di memoria, sono qua dove ci sono i vigili. Non me lo ricordo, è una mia particolare, non me lo ricordo, ma già ho capito. E poi esce la rotatoria per andare da lì. Sì, sono qui dove c'è la banca intesa, mi dà tanto che ci siamo persi. Perfetto, forte e chiaro, ma io ti sento anche l'altra volta, lo eri da buttare, ti avevo questa antenna messa alla caldaia, cambia. Ora cominciamo a perdere il segnale comunque. Ma ultimamente quello è normale, che il segnale è così freddo dove sono i palazzi, eccetera. Mandami una foto Gianni dell'antenna, sono curioso. Io sono andato e tornato dalla farmacia, dai, ho fatto in fretta. Quella è bella, meno caricata, più lunghezza, certo è un barasone, però rende anche di più già. Ciao anche a Nicola, se mi sente. Sì Marco, sono in movimento, inizio di via Leuberto, ti sento bene, campo. È ho sentito un po' di salti già, è come che il PTT non trema bene o l'antenna, non so. Ma scusami. Sì. Nicola, ti chiede Gianni dove sei, io ti copio forte, Nico, non c'è problema. Via Umberto, via Umberto, vicino la Italia. E allora mi ascolti, Nicola, adesso ti ascolto, mi ascolti? Lo so, ormai ci stiamo perdendo, Sì, contate che in città già succede con le antenne full size veicolari, no? Quelle da 2 metri, un metro e mezzo, insomma, fai fino a 2 metri. Con le antenne caricate lo fa di più, Nico, ovviamente, dai. E sai dove sono belli i baracchini? In quei grandi spazi americani, è presente che vedi miglia e miglia di orizzonte, che fai anche 50 km come niente, con il watt dell'apparato. Stavo guardando, dovresti avere avete parlato in due, è passato Nicola. Sì, Nico, segnale ottimo, 9+20 abbondante. Adesso mi faccio un bel caffè endovena, così la serata è fatta. Gianni, io sono adesso in via Enzo, in via Mossa, cambio. Io invece sono al Ponte Nuovo, alla fine del Ponte Nuovo. Sento Gianni, buonasera, sono rientrato, buonasera a tutti. Allora, per un attimo hai toccato il 9+30, Nicola, per un attimo, capito, 9+25 e poi per un attimo 9+30, d'altronde noi siamo qui. Eia. Sì, perché quella è anche una via di mezzo, capito? È circa un metro, non sono due, però quelle ce ne sono peggiori anche di quelle che io piccole, o Gianni anche, se mi ascolti ancora, vendevano tipo la Intec, la Midland, queste micro antenne, sembravano antenne autoradio, ma erano ancora più piccole delle antenne autoradio, erano super iper caricate. E praticamente erano come i gommini di serie dei portatili, dai, riprendi Gianni. Sì, arrivi già. Una media, aspetta, Sì, una media di 9, un po' 8, un po' 9,5, 9,10, poi di nuovo 9, poi 8. Una media di 8, dai. Di 9, scusa. Quindi ottimamente, dai. Marco. E Ianico. Sì, a voglia. Andavo lì a drogarmi tanti anni fa. Come? Scherzo, Adesso non so se ti copia, ma Gianni l'ho sentito comunque. Gianni, Nicola è al fosso della noce in basso e ti ha perduto. E ho detto che Nicola è al fosso della noce, quindi ti ha perso. È molto infossato, capito? Eia. Peccato per quella LEM. Purtroppo, certe volte la LEM in queste antenne un po' corte si perde in un bicchiere d'acqua. Vabbè, io saluto Nicola che sarà arrivato a casa, dai. Sentiremo quando capita, tanto io sono molto incostante con la radio, io non è che ci sto troppo appresso, c'ho altri interessi, altre cose da fare, dai. Una volta, Nico, mi ricordo nel 2010, insomma, i primi anni, quando c'è stato il rientro delle persone, stavamo tipo dalle 3 di pomeriggio fino alle 8 di sera, tutta la sera in radio, solo che era sfiancante. Ma mi sentite? Cappa, chi è? Antonio? Sì, Cappa, no, volevo sapere se mi sentivano con la macchina loro. Allora, io sono al posto della noce, ho passeggiato e lo sento, tu mi senti, Cappa? A voglia ti sento, a voglia, sei abbastanza forte, tu come mi senti lì? Sì, forse è chiaro, anche se ripeto, il posto della noce è appostato, ma mi sento forte, Cappa. A voglia, io ti sento forte anche qua. Allora mi fa una cortesia, mi saluta Marco, saluta Gianni, saluti da Nicola. Gianni, saluti da Nicola. Il segnale finale parcheggiato 8:15. Sempre un poco meno di 9, dai. Ma che ti ascolto già, e tu mi ascolti lì. E un po' c'ho questo cazzo di fischio, c'ho un pochettino, però già ti ascolto lo stesso, dai. Ha detto, perché adesso non l'ho sentito più, c'ho questo fischio, c'ho. Mi sta rompendo le spalle. È un disturbo elettrico quello. No, tanto ti chiedeva se avevi ancora quell'antenna che avevi preso da Fusaro, veicolare, che la piegavi e non si pigiava. Così si dice. Deve essere a casa di Babbo quella lì. Non me la ricordo adesso. C'è un disturbo elettrico, credo, Antonio, una specie di rumorino. Ok, bene, bene, dai. Sono contento. Gianni, quando puoi, quando potrai, una foto di questa antenna che sono. Io, bene o male, le LM le conosco tutte, però sai, con i nuovi modelli magari non ce l'ho presente, dai. Ci tieni la foto come ricordo. Ciao e Longo. Ok, Nicola sarà andato a casa. Antonio, dai, buona serata. Tra poco l'ora del, vabbè, ancora no, della televisione, a meno che non mi chiamino per fare un giretto. Ciao gli ascoltoni, buonasera a tutti. Quelli sì, buonasera, loro chiude, buonasera. E io, ciao Nico, dimmi già. Facciamo il puttan tour, facciamo. Saturn, questa cosa mi ricorda qualcosa. Sì, con gli amici lo chiamavamo puttan tour, il giro per ridere, sempre a chiedere i prezzi, capito? Dicevano 50.000, ma 50.000 tutti assieme o uno alla volta? No, 50.000 uno. E poi ce ne andavamo naturalmente, sai, quelle nere che erano per da niente. Oh, poi qualcuno di sua spontanea volontà ci faceva vedere le tippene. Vero. Beh, per invogliare il cliente a comprare, no? E noi, ciao, ciao, fate un giro. Luca, dammela ricordo qualche notte, Gianni già te lo ricorda. Già te lo ricorda a casa qualche presa per il culo che avevamo fatto. Che scappavano, quando vedevano l'antenna scappavano, te lo ricordi già? Forse è sceso. Oh, è vero, mi Anto, quando le poche volte, che ne so, tornando dal Ghero, che c'avevo l'antenna del baracchino, che passavo lì più o meno il vialetto, quella, come vedevano l'antenna sulla macchina, iniziavano a correre o a nascondersi, probabilmente pensavano che fosse la polizia, e quindi quello vuol dire che sono immigrate clandestine, gente irregolare, che non dovrebbe stare nemmeno in Italia. Sì, mignottone sono. Però anche poveracce, molte sono sfruttate, sai come fanno? Le portano qui, con la promessa di un lavoro, no? Poi li prendono il passaporto, i loro sfruttatori, glielo prendono, e quindi queste sono impossibilitate a tornare a casa. Poi gli dicono, se torni a casa ti ammazziamo, cioè, se tu cerchi di scappare ti ammazziamo i parenti in patria, no? Oppure gli dicono che gli fanno la macumba macumbera, la fattura, capito? È brutto, però così va il mondo. Io ho seguito un programma un po' di tempo fa, cosa succedeva? Poverini, e poi, vabbè, qualcuno lo farà per avere qualche soldo, ma la maggior parte sono sfruttate, cioè gli danno due citti, li danno, e il grosso se lo tengono gli organizzatori o le organizzatrici, perché molte sfruttatrici di queste disgraziate sono donne, le maîtresse, quelle nigeriane, purtroppo non vorrei essere al loro posto, dai. Un giorno stavo seguendo un documentario di queste qua, e cioè, niente combinano, tutti i colori niente combinano, gravissimi, ribelli di mafia, roba brutta proprio, mafia nigeriana, tutte quante quelle cose lì. Ah, dalla finestra mi sento un po' di fresco. Sì, è un bijou adesso, rispetto a giorni fa. E vedi, i senegalesi sono diversi, salvo rarissime eccezioni. I senegalesi la pensano in un altro modo, vengono a lavorare, a vendere vabbè, roba così sulle spiagge, quello che c'è. Però i nigeriani sono cattivi, sono proprio... Boh, così è. Boh, sono fatti così. Eia. Poi, non è che i nigeriani, c'era qualcuno anche tranquillo, ma molti meno tranquilli, molti. Ascolta Antonio, ma tu dove sei? Dalla parte alta del corso, corso Vico però, non corso Vittorio Emanuele. Il corso va più dalla parte di corso Vico che dal corso Vittorio Emanuele, dai. Piazza Colonna Mariani, quella zona lì. Ehi, perché il corso Vittorio Emanuele è diventato in basso lì, un bel ambientino, un bel ambientino è diventato anche lì, tra romeni e nigeriani, adesso il territorio è diventato loro. Vabbè. Un bel fiacco di curo, Ehi, un peccato però. Tieni farà bello, pieno di negozi, comunque tutto male. Vabbè. Bene, detto ciò, io vi saluto definitivamente. E fra poco mi comincia a scaldare la televisione e vedere cosa c'è stasera. Ok, ciao Antonio, piacere averti sentito. Gianni sarà già a casa, avrà già cenato, sarà già andato a dormire a quest'ora. Gianni, sì. Scappa, sicuramente così. Anche io qua ce li ho nel palazzo, ce li ho, ma sono tranquilli, non rompono, Avete parlato in due? Non lo so. No, scusa Anto, sono le radio BCL AM che mi entrano nella ricezione e le sento sul tuo segnale. Non dipende da te, dipende da me. Pura mare. Ho detto che io qua nel palazzo che io con la gente lì. Un poco di fiacco, ma non rompono però. Se rompono già lo sai, no? Stava giù un manganello e fiacco di una passata. Ok, dai, ce la risentiamo le prossime allora, dai. Eia, santo, quando capita, dai. Io sono molto discontinuo nel modulare. E a giornate, a umore, adesso si sta meglio perché c'è fresco, ma gli altri giorni ero in stato comatoso, dai, quasi. Ciao, buona serata, ciao. Quelli di esecutivo. Fa capa. Ma il segnale 9.30 sono. Fammi guardare. 2-3 prova, l'ultima prova è boh. No, diciamo che è un 9.20 pieno, ma non è nemmeno 9.25, è un 9.20 pieno. Ok, ciao. Ok, dai, ci sentiamo le prossime, grazie del controllo. Eia, ciao anche a chi ha salutato, che non passava, chi è? Vai, non passava, ma Lugato che va, c'è sopra. Buonasera, ciao. Ciao Cla, no, perché arrivate adesso, se tu sei in campagna, sei praticamente lo stesso segnale di bombolo, diciamo, non è che non sei passato, non passava a te nessuno dei due, dai. Io sono con baracchino, 5 watt, prova a parlare Antonio, vediamo un po', prova a parlare. Guarda, se mi senti, io sono 10 km da Sassari, prova. Beh, no, già passi, non so se hai aumentato qualcosa, già passi Claudio. Conta, caspita, guarda Antonio, per avere quell'antenna che ha, l'ha messa sul tetto, ma c'ha quell'antenna da un metro di quella di plastica, come si chiama? La bazooka, ha un altro nome, Thunder, come si chiama? Sembra una cedda nera a me. Vabbè, ma siete molto vicini voi, io conta dove sono, però sono molto più aperto di lui, no, non c'è problema, sei 9.25, tu qua quasi 9.30, lui è 9.10, quindi va Va bene, dai, sono entrato per salutarvi. Ci sentiamo, statemi bene a todos, alle prossime telecomunicazioni, cambio. Claudio, fra un poco la punimmo, fra un po' mettiamo una bella 5 tappi qua. A vedere se schirreggia. Vai Anto, vai, vai alla grande, non c'è problema, io settimana mai rientro a Sassari, quindi riattacchiamo il K, questo è il baracchino, l'Elbex 40 canali con niente, già 8 watt, oh Marco, già lo sai che baracchino è. Il microfono è l'MB più 5. Va bene, dai, ci sentiamo, statevi bene, io vado a preparare la cena e poi mi guardo la TV. E anch'io sono come te Marco, un po' entro, un po' non entro, un po' ascolto, un po' non me ne affutti nulla. Va bene, ciao a tutti, buon divertimento, ciao ciao. Ehi a Claudio, sì, dai, sentiamo. Ehi, ho sentito, vabbè, il PMR un po' che non ti piace entrare più, non c'è mordente, lo so, troppi controlli, troppi controlli, dai, ci vuole un argomento di cui parlare, solo che non... Certe volte anche a me non mi vengono argomenti, cioè, boh, non... E perciò sta entrando meno, però all'anima oggi, giorni e giorni di silenzio totale, oggi parlando uno sull'altro, quando troppo quando niente. Perché poi quando sei in tanti hai capito, prova che ti prova, no, già vi stavo ascoltando quando stavo facendo altro, sì, in più il resto sto entrando un po' di più, cioè Tonino, Anuele, Dio Maria, insomma facciamo due chiacchi. Niente di che, no, ieri ho sentito un bellissimo QSO tra Gianfranco e Giulio, stavo ascoltando volentieri, però non potevo entrare perché c'avevo gente. A volte mi piace ascoltare, a volte mi piace scambiare due chiacchiere, ma poi alla fin fine non c'ho più quella passione di prima, Marco, no, non mi interessa. Io guarda, se veramente ci fosse qualcuno che apprezzasse le radio, che si porterebbe via tutto, mi fa un favore, solo che soldi non ce n'è e quindi le radio rimangono dove sono, dentro l'armadio, se no io ho le armadie piene di radio e voglio farle fuori, perché adesso sto aspettando un amico che rientra dalle ferie. Appena rientra dalle ferie attacchiamo sul tetto e tolgo tutto, quindi non so manco se lascio la mantova a Sassari, non lo so. Vabbè, dai, si vedrà. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo, ciao ciao. Eia, vabbè, non fare l'errore di levare la mantova, no, cioè a costo di non usarla, ma lasciala su, il giorno che voglia entrare entri, sarebbe un grave errore toglierla, il mio consiglio è lasciarla comunque. Eia, poi vabbè, un po' importantine, non lo so, qualche risapore, l'importante è che si risolvano, perché alla fine, cioè magari parla uno portante, parla l'altro portante, non riusciamo. Meglio appianare le cose, essere tutti felici e contenti, dai. Va bene, io mi attacco alla TV adesso, la mia amante, la televisione. Ciao a tutti, ciao, dai, è mezz'ora che sto tentando di fare quelle di esecutivo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Marco, non ti trattengo, ciao ciao, anche a me mi hanno chiamato. Ciao a te e ciao a tutti quelli che sono in ascolto su 10, ciao ciao. Ciao ciao, ci risentiamo le prossime, ciao ciao. Ciao ciao ciao, te lo saluto a babbo, ciao. E K, domani mattina quando lo vedo già lo saluto, sono a casa mia io adesso. Già lo so, ma quando lo vedi portare i miei saluti, ok? Che mi fa piacere. Ciao a te. Ciao.